La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e benvenuti all'appuntamento con la storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole è dedicato alle migrazioni italiane in Svizzera dal secondo dopoguerra fino alla metà degli anni 70. Ospite ai nostri microfoni Tony Ricciardi, autore del libro Associazionismo ed emigrazione, storia delle colonie libere e degli italiani in Svizzera, appena pubblicato dalla Terza. Radio 24, in collaborazione con History Channel, in seguito vi farà ascoltare un radiodocumentario dedicato alle armi che hanno cambiato il mondo. L'uomo ha sempre costruito utensili e alcuni dei primi sono stati appunto armi. Le armi non sono solo una parata di feroce potenza di fuoco. Molte hanno cambiato la storia. La parola adesso va a Dino Pesole. È una pagina della storia dell'emigrazione italiana all'estero non molto conosciuta e non particolarmente trattata dalla storiografia. È la storia dell'emigrazione italiana in Svizzera, paese che dal secondo dopoguerra fino alla metà degli anni 70 del Novecento ha accolto circa il 50% del flusso migratorio italiano. Fenomeno che si collega all'altrettanto importante capitolo dell'associazionismo italiano in emigrazione. Nel 1943, mentre l'Italia preparava la liberazione dal nazifascismo, a prezzo, come sappiamo, di una spaccatura profonda e di un tragico biennio di sangue sul suo stesso territorio, viene fondata la Federazione delle Colonie Libere Italiane in Svizzera, di fatto il primo modello laico di supporto e assistenza agli emigrati. Temi, questi dell'emigrazione in Svizzera e dell'associazionismo, di cui si occupa il libro di Tony Ricciardi, Associazionismo ed immigrazione, storia delle colonie libere degli italiani in Svizzera, appena pubblicato dalla Terza. Il professor Ricciardi è qui con noi in studio questa sera. Buonasera professore, ben arrivato. Buonasera a lei. Le miniere di carbone in Belgio, le industrie in Germania, gli ultimi viaggi transoceanici nell'America Latina o verso l'Australia. Sono queste le immagini che vengono in mente pensando agli italiani all'estero. Di contro, la Svizzera è stato uno scenario sottovalutato e quasi dimenticato dalla storiografia nazionale, nonostante abbia attirato milioni di italiani, prevalentemente del nord e nord-est, e poi, a partire dagli anni 70, del sud. Dal 1861 al 1985, in poco più di un secolo, quasi 5 milioni di italiani si sono diretti verso la Confederazione Elvetica, 2,6 milioni a partire dal secondo dopoguerra, fino alla metà degli anni 80. Tanto che oggi l'oltre mezzo milione di presenze fa dei nostri connazionali in Svizzera la terza comunità italiana nel mondo. Una parte consistente di questi italiani ormai radicati in Svizzera, circa 200.000, ha acquisito nel frattempo la doppia cittadinanza. Ma l'aspetto forse più interessante della nostra emigrazione nella Confederazione Elvetica è il fenomeno appunto dell'associazionismo, che ne fa una sorta di unicum nella storia dell'emigrazione italiana. Circa un quarto delle strutture associative italiane nel mondo è presente in Svizzera, dove già a cavallo tra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX secolo, e soprattutto a partire dagli anni 20 del Novecento, sorsero diverse organizzazioni a carattere religioso, politico o sociale. Questa forma di associazionismo trova la sua massima articolazione proprio nel territorio della Confederazione, dove già nel 1834 Mazzini fondò la Giovine Europa. A fine secolo sorsero le missioni cattoliche italiane e i socialisti diedero vita all'Avvenire dei Lavoratori e al ristorante cooperativo a Zurigo. Non esiste altro paese europeo che, come la Svizzera, abbia visto una diffusione altrettanto capillare dell'associazionismo in emigrazione. Bene, vi presento il nostro ospite, Tony Ricciardi, che ha conseguito il dottorato in storia dell'Europa presso l'Università di Napoli Orientale, dove continua a svolgere attività di ricerca. Allora, ci racconti un po' meglio nel dettaglio questa pagina, intanto perché la storiografia ufficiale non si è occupata di questo fenomeno? Ma guardi, si è concentrata particolarmente sulla Germania e poi sul grande flusso della grande storia dell'emigrazione italiana, la grande emigrazione, la grande fuga oltreoceano, e quindi lo stereotipo che è rimasto nel sentir comune, quando si parla di emigrazione si pensa immediatamente agli Stati Uniti, all'America Latina, all'Argentina, al Brasile, al Belgio, e ben poco a un paese piccolo, contiguo, vicino come la Svizzera, che generalmente viene ricordata per tutt'altro. Beh, però, stando ai numeri riportati nel suo libro, circa il 50% del flusso migratorio italiano in questo paese, ancorché piccolo, dimostra che c'è anche una rilevanza economica. Ma guardi, la rilevanza economica è altissima, tant'è che la quantità di rimesse nel secondo dopoguerra che provenivano dalla Svizzera in forme lecite o illecite, che venivano trasportate, un po' il percorso inverso di quanto accade sì. oggi, è stato molto consistente. Ma poi guardi, probabilmente questa scarsa attenzione è dovuta al fatto che l'immigrazione, la presenza italiana per molti decenni era una presenza temporanea, provvisoria, cosiddetti stagionali, e quindi la vicinanza, la difficoltà nel anche nel quantificare una massa enorme di lavoratori che per 8-9 mesi l'anno vivevano in Svizzera e poi ritornavano, migliaia di frontalieri, come dire, e poi il Canton Ticino, un pezzo di Svizzera nella quale si parla italiano, come dire, è diventata un'analisi un po' dimenticata. Ciò nonostante, devo dire, negli ultimi mesi, per un strano caso, gioco del destino, stanno proliferando ricerche e approfondimenti sul tema. Quali sono i caratteri salienti dell'immigrazione italiana in Svizzera, in che cosa si distinguono rispetto, appunto, a quello che dicevamo poc'anzi, lo stereotipo dell'italiano che parte con la valigia alla volta della terra promessa? Allora, innanzitutto la Svizzera è il paese dell'Europa occidentale che vivrà lo sviluppo economico sensazionale. Sarà il paese che crescerà di più, triplicherà il proprio PIL nel primo ventennio del secondo dopoguerra. E poi la Svizzera sarà il primo paese dell'Europa occidentale a dotarsi di una legislazione organica in materia di ammissione. Non ci sarà paese, se non gli Stati Uniti, che lo faranno negli anni 20 del Novecento, ad avere un sistema di ammissione così rigido e ben strutturato. E poi la peculiarità è che la Svizzera, immagini che nel 2002, durante il dibattito parlamentare sulla nuova legislazione in materia di ammissione e sulla decisione da prendere da parte del governo di Berna se aderire o meno a alcuni dettati di libera circolazione dell'Unione Europea, solo nel 2002 la Svizzera acquisì la consapevolezza di avere alle spalle un trascorso immigratorio. La presenza degli stranieri è sempre stata vista come una presenza provvisoria, temporanea, erano esclusivamente un elemento, un fattore del sistema economico. Parliamo ora dell'altro aspetto che è approfondito nel libro, cioè quello dell'associazionismo in emigrazione. In particolare si ricorda che nel 43, appunto, mentre l'Italia preparava la liberazione dal nazifascismo, in Svizzera nasceva la Federazione delle Colonie Libere Italiane in Svizzera. Con quali caratteristiche e quali scopi? Ma guardi, intanto, piccola parentesi, l'associazionismo in emigrazione è stata una caratteristica dell'emigrazione italiana. Non c'è paese come l'Italia che ha sviluppato un sistema associativo nel mondo. Quindi anche negli altri paesi. Anche negli altri paesi. La peculiarità, questo già venne registrato alla metà degli anni 70 dal Ministero degli Affari Esteri, non c'è paese al mondo come la Svizzera dove si è assistito alla proliferazione, al radicamento strutturato di associazioni italiane. Per tornare alla Federazione delle Colonie Libere, nasce, i primi nuclei si fondano la metà degli anni 20 nelle città principali, Ginevra e Zurigo, sono antifascisti, esuli. E praticamente, come dire, l'antifascismo militante si organizza e immediatamente dopo l'8 settembre italiano riesce a darsi una struttura federata e quindi dare delle prime risposte a un afflusso di gente che scappava, di esuli, di persone che scappavano negli ultimi anni della guerra dall'Italia, e riesce a darsi una propria organizzazione strutturata che arriverà agli inizi degli anni 70 ad essere una delle associazioni più strutturate sul territorio elvetico, tant'è che si conteranno quasi 120 circoli sparsi sul territorio, 30 squadre di calcio, cineclub, cioè una struttura ben ramificata, tanto da importare verso la metà degli anni 60 il sindacato italiano in Svizzera. L'Inca CGL entrerà e si radicherà nel territorio elvetico tra mille difficoltà, perché ricordiamoci sempre che questa storia avviene durante la fase della guerra fredda, il mondo diviso in blocchi, e la Svizzera era molto rigida e riluttante verso il blocco rosso, tra virgolette, e guai ad avvertire la presenza di politicizzazione tra le masse immigrate, tant'è che l'espulsione per attività comunista, ad esempio, sarà una delle leve che maggiormente il governo di Berna utilizzerà nei confronti della massa immigrata politicizzata. Allora, un'ultima questione che mi interessa approfondire, sempre a proposito di stereotipi: se noi pensiamo all'emigrante negli Stati Uniti, vediamo Ellis Island, tutte quelle prove anche umilianti cui venivano sottoposti. Ma in Svizzera come venivano accolti i nostri italiani? Guardi, in Svizzera i nostri italiani fino alla seconda metà degli anni 70 subivano la visita al confine. Erano Max Frisch, erano in fila, nudi, in mutande, con il passaporto in mano. Cioè, praticamente un po' quello che si ricalca un po' su Ellis Island, in forme e modalità diverse, però stranamente se ne è sempre parlato molto poco. Molto molto poco, perché probabilmente gli interessi e le forme di collaborazione tra l'Italia e la Svizzera erano ben altre. Tenga presente che, ci tengo a ricordarlo, fino al 1976 la Svizzera sarà la prima meta, la prima destinazione dell'emigrazione italiana. Molti immaginiamo che l'emigrazione del secondo dopoguerra sia la Germania, no? Eppure così non fu, per ovvie ragioni storiche, di ricostruzione, forze di occupazione e quant'altro. E quindi questo è il primo stereotipo. Il secondo stereotipo è quello di pane e cioccolata. Sì. E quindi certo, questa ricerca spasmodica a forme di integrazione, perché ti sentivi diverso, ti sentivi altro, però questa difficoltà. E poi, ultimo punto, questo incrocio che avviene all'estero tra un'emigrazione vecchia, tra virgolette, quella proveniente dal nord Italia, e questa massa enorme dal mezzogiorno d'Italia che si incrociano e si incontrano in Svizzera. Bene, grazie, buona serata a Tony Ricciardi e grazie per questi chiarimenti. Grazie a lei. La storia e la memoria. Bentornati alla seconda parte della Storia e la memoria. Radio 24, in collaborazione con History Channel, vi presenta un approfondimento dedicato alle armi che hanno cambiato il mondo. La rivista Popular Mechanics ha riunito un gruppo di professionisti, studiosi e giornalisti di ogni angolo del mondo e ha chiesto loro di stilare una classifica delle 101 armi che hanno cambiato il mondo. Vi svegliamo le prime posizioni di una classifica all'insegna di potenza, innovazione e grandi momenti della storia. Vi ricordiamo che la versione integrale del documentario andrà in onda domani, domenica 19 maggio alle 21, su History Channel. Si inserisce silenziosamente nella lista al numero 10. È una nuova arma che in poco tempo ha avuto un impatto enorme sulle guerre, il drone. I droni hanno cambiato il mondo garantendo alle forze aeree di tutto il pianeta di dare battaglia al nemico senza rischio per i piloti. Sharon Weinberger, scrittrice, esperta di sicurezza nazionale. Molti li chiamavano UAV, che sta per veicoli aerei senza pilota. Poi sono diventati UAS, sistemi aerei senza pilota. Ora invece vengono chiamati aerei a pilotaggio remoto, cioè APR. Se non c'è un pilota che può essere abbattuto, cambia anche il modo in cui si fa la guerra. Adesso la CIA ha una propria flotta armata di velivoli, cosa che, secondo me, non sarebbe mai successa se ci fossero stati uomini a bordo. Un evento che ha cambiato il mondo a opera di un drone è apparso sulle prime pagine nel novembre del 2001, quando il Predator ha eliminato Mohammed Atef, un capo militare di Al-Qaeda, genero di Osama Bin Laden. Numero 9. Un'arma che ha cambiato il mondo, i cui effetti ormai si sentono da circa 160 anni. La cartuccia. Prima delle cartucce sigillate, la polvere da sparo era alla mercé del vento e del tempo. Poi sono arrivate le cartucce di carta, ma anche quelle sono inservibili se si bagnano. Poi nasce il proiettile moderno, che racchiude la polvere da sparo in una capsula metallica. E infine il famoso Full Metal Jacket, una cartuccia racchiusa da capo a piedi, che garantisce a chi spara una grande precisione di tiro, l'incarnazione della potenza di fuoco. Al numero 8, una delle più importanti armi da fuoco nella storia degli Stati Uniti, l'M1 Garand. È il fucile usato dagli alleati per fermare Hitler e mettere fine alla Seconda Guerra Mondiale. Jim Haag, ex istruttore di tiro, esercito degli Stati Uniti. Credo che questo fucile abbia cambiato il mondo, perché è stato il primo vero fucile semiautomatico da battaglia di successo. Ci ha garantito la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Con un caricatore a 8 colpi, il suo sistema semiautomatico esplode le famose cartucce calibro 30-06 alla vertiginosa velocità di 900 metri al secondo. Al numero 7, siamo nella terra dell'Iliade e dell'Odissea, dove il mito torna in vita. La spada dell'età del bronzo. Avete mai notato come le lame di tutte le vecchie spade sembrino delle lunghe foglie di un albero? Nell'età del bronzo si costruiscono in questo modo per massimizzarne la forza. Dato che l'età del bronzo dura ben 2600 anni, queste armi sono tra quelle che hanno avuto il maggior impatto nella storia dell'uomo. Al numero 6, un modello di fucile che ha cambiato tutto. La carabina bolt action. Questo tipo di arma ha cambiato il mondo durante la Prima Guerra Mondiale, quando quasi ogni esercito in Europa, dai tedeschi agli inglesi, la usava per decimarsi a vicenda. Garantisce un sistema semplice per espellere la cartuccia usata e caricarne un'altra. George Wunderlich, National Museum of Civil War Medicine. La carabina bolt action permette di tirare indietro il cane e caricare l'arma con un solo movimento. Inoltre è dotata di cartucce molto robuste a lunga gittata. Oggi esistono modelli che fanno centro a 6 km. Al numero 5, l'arma che per prima assicura la morte da notevole distanza. Arco e frecce dell'età della pietra. Finalmente è possibile proiettare la forza oltre la distanza di un coltello o di una lancia. Gli archeologi hanno disseppellito frammenti di punte di freccia vecchi di 64.000 anni. Posizione numero 4. Nessun'altra piattaforma d'armi nella storia esprime potenza come la portaerei. Queste città galleggianti hanno cambiato il mondo dispiegando un'enorme potenza di attacco lontano dalla terraferma. Joe Pappalardo, redattore senior della rivista Popular Mechanics. Non ci si può considerare una superpotenza se non si ha la capacità di mandare una portaerei dall'altra parte del mondo. Subito dopo l'arrivo degli aerei ad ali fisse, le forze armate iniziano a sperimentare decolli e atterraggi dalle navi. Durante la Seconda Guerra Mondiale, gli Stati Uniti usano le portaerei nella battaglia di Midway per mettere fine alla guerra aerea giapponese nel Pacifico. Eric Wertheim, US Naval Institute. È stata la portaerei a permettere agli Stati Uniti di dominare il periodo post-Seconda Guerra Mondiale, perché grazie a una marina potente, la portaerei proietta la propria potenza ovunque. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, le portaerei diventano più lunghe e più forti, fino ad accogliere sia l'era dei jet che quella nucleare. Oggi gli Stati Uniti vantano 11 superportaerei nucleari. Questi mostri sono lunghi quanto l'altezza dell'Empire State Building. E voliamo alla posizione numero 3. Semplice da montare e smontare, è un'arma così riuscita che ne sono stati prodotti 75 milioni di esemplari. La AK-47. Lo inventa il famoso tenente generale dell'esercito russo, Mikhail Kalashnikov, che lo progetta nel 1947. Nel 1956 è già il fucile d'ordinanza dell'esercito sovietico. Ancora oggi viene utilizzato e fabbricato in enormi quantità in tutto il mondo. Jim Supica, National Firearms Museum. La genialità di quest'arma non è la sua complessità, quanto la sua semplicità. Si è detto che è relativamente facile progettare e costruire un'arma da fuoco complessa, ma renderla semplice, affidabile in ogni condizione, quello è geniale. Joe Pappalardo, redattore senior della rivista Popular Mechanics. La K-47 non solo si è diffuso in tutto il mondo, è uno dei più popolari fucili d'assalto. È un'icona presente sulle bandiere nazionali come quella del Mozambico. È un simbolo di rivoluzione ed è quasi impossibile che si inceppi. È perfetto per le milizie poco addestrate e gli eserciti di coscritti di tutto il mondo. Al numero 2. Nessuna arma da fuoco nella storia del mondo potrebbe funzionare senza polvere da sparo. È il carburante per il fuoco. Jim Supica, National Firearms Museum. La polvere da sparo è l'elemento principale del 90% delle armi di questa lista. Che sia un'arma da fuoco, o un carro armato, o un velivolo che trasporta armamenti, sono tutti alimentati da questo propellente chimico che brucia per esplodere il proiettile. La polvere da sparo nasce nella Cina del IX secolo. 400 anni dopo, i cinesi lanciano frecce propulse a razzo contro i nemici. In seguito diventa la soluzione perfetta per sparare i proiettili. Ma per quanto incredibile, questa semplice ricetta che ha cambiato il mondo è perfino migliorata. La polvere da sparo cinese brucia in fretta. Ma verso la fine dell'Ottocento arriva una nuova formula che brucia più lentamente ed è 3 volte più potente. Brucia più intensamente, quindi i proiettili lasciano la canna più velocemente e vanno a segno con più precisione, senza deviare per via del vento. La numero 1. Siamo pronti a svelare l'arma più importante della Terra, quella che ha cambiato il mondo più di ogni altra. Qual è? Ecco un indizio. In un modo o nell'altro, è stata puntata su quasi ogni essere umano del pianeta. La prima arma della classifica è la bomba nucleare. È l'arma più potente che l'uomo abbia mai costruito e mai conosciuto. E ha influenzato la vita sulla Terra a un livello sconcertante. James Makes, caporedattore della rivista Popular Mechanics. È davvero facile concentrarsi sull'orrore dell'uso della bomba atomica a Hiroshima e Nagasaki, è ovvio, ma non si può ignorare che nel corso della storia abbia salvato molte più vite. Naturalmente, le vite dei soldati americani che erano destinati ad attaccare le isole del Giappone, ma anche di milioni di cittadini giapponesi che sarebbero morti se la guerra fosse proseguita. Da Hiroshima e Nagasaki alla Guerra Fredda, dalla Baia dei Porci agli sforzi incessanti per tenere queste armi lontane da paesi come l'Iran, le bombe nucleari continuano a plasmare e cambiare il mondo. Sharon Weinberger, scrittrice, esperta di sicurezza nazionale. Siamo tutti d'accordo sul fatto che è importante fermare la proliferazione nucleare e che il mondo sarebbe più sicuro se meno paesi avessero le armi nucleari. Ma potrebbe esserci una sorpresa per i nostri discendenti. Gli scienziati stanno lavorando su teorie per creare una bomba di antimateria in grado di produrre esplosioni grosse come quelle nucleari, ma senza radiazioni. Avete ascoltato il documentario realizzato in collaborazione con History Channel dal titolo 101 armi che cambiarono il mondo. Produttore Jason Williams, titolare dei diritti Fox International Channels Italy, casa di produzione EITN. Vi ricordiamo inoltre che la versione integrale del documentario andrà in onda domani, domenica 19 maggio, alle 21, su History Channel. Un ringraziamento in redazione a Gloria Guerrera e Anita Panizza. La storia e la memoria vi dà appuntamento a sabato prossimo. Buonanotte.